Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Sono 19:14:54. Una buona serata, un buon sabato da Giampaolo Musumeci e ben ritrovati a questa puntata di Nessun luogo è lontano. Allora, vi ricordo la squadra, che è composta da Nadia Zammitti in redazione e Filippo Aureggi in regia, che quest'oggi darà musica e ritmo. E vi ricordo anche le coordinate per interagire con noi, per commentare i temi di questa sera oppure porre domande a me e ai miei ospiti: la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666, il profilo Facebook, ormai lo conoscete, nessunluogo_radio24, infine commenti più sintetici al Twitter nessunluogo24. Come preannunciato dai colleghi del GR, parleremo sì del rientro dei Marò in Italia dopo questi 10 lunghi mesi di detenzione in India, ma prima volevo riprendere le fila del tema affrontato sabato scorso, e cioè riprendere le fila di quella crisi maliana che sta in qualche modo montando, perché paradossalmente questo stallo militare ma anche diplomatico sta permettendo alle parti e soprattutto alle tre formazioni estremiste armate nel nord di organizzarsi in vista di una possibile azione militare. Perché ne riparliamo? Beh, perché nei giorni scorsi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha dato l'ok, ha dato il semaforo verde per una missione guidata da paesi africani. Dovrebbe essere l'ECOWAS, l'Unione dei Paesi dell'Africa Occidentale, a guidare una missione militare che dovrebbe liberare il nord del paese, lo dicevo, in mano appunto a questi gruppi estremisti. Come verrà condotta questa missione militare, con che tempi, e lì ahimè sono le note dolenti, ci ragioneremo tra poco, ma prima è utile ricapitolare gli ultimi eventi di questa lunga crisi maliana. La ribellione dei Tuareg contro il governo maliano di Bamako mira a ottenere l'indipendenza dell'Azawad, e cioè quel triangolo di terra e deserto che si estende dal nord Mali e comprende lembi di Niger, Algeria e Burkina Faso. Le tradizionali rivendicazioni dei gruppi Tuareg si protraggono sin dal 1916 e dall'autunno del 2011 sono giunte dall'MNLA, il Movimento di Liberazione dell'Azawad. All'inizio del 2012, nel giro di poche settimane, i capoluoghi del nord del Mali, Kidal, Gao, fino a Timbuktu, cadono l'uno dopo l'altro nelle mani dei ribelli Tuareg, generando un flusso di decine di migliaia di profughi verso sud. La crisi nel nord del Mali provoca un inatteso contraccolpo nel resto del paese. L'esercito accusa il governo democratico di non sostenerlo adeguatamente nello sforzo di contrastare i Tuareg e sceglie la via del colpo di Stato. Il 22 marzo, un gruppo di militari si impadronisce dei palazzi del potere a Bamako, spodestando il presidente Amadou Toumani Touré. Ma nemmeno i golpisti riescono a fermare l'avanzata dell'MNLA, che proclama l'indipendenza dell'Azawad. Da questo momento, però, per il movimento Tuareg si pongono due problemi. Da una parte, l'unanime condanna internazionale alla loro offensiva e alla proclamazione di indipendenza. E dall'altra, le tensioni scoppiate tra i diversi gruppi islamisti, sin dall'inizio coinvolti nelle rivolte a fianco dell'MNLA. I primi a dissociarsi dalla proclamazione di indipendenza dell'Azawad sono stati gli Ansardini, ovvero i difensori della fede, gruppo fondamentalista legato alla galassia del terrorismo internazionale di ACMI, Al-Qaeda nel Maghreb. La loro guerra è il jihad. Vogliono imporre la Sharia e fare di tutto il Mali una teocrazia islamica. Dallo scorso aprile occupano la città di Timbuktu, dove hanno distrutto le tombe dei santi sufi. A complicare la situazione è la comparsa di un'ulteriore formazione armata ancora più radicale e agguerrita, denominata Mujao, ovvero Movimento per l'Unità e la Jihad in Africa Occidentale. Il 27 giugno il Mujao si è scontrato apertamente con l'MNLA nella città di Gao, assumendone il controllo e prendendo in ostaggio alcuni occidentali. Nel 2012 le alleanze tra i Tuareg e i fondamentalisti ACMI sono cambiate più volte e di fatto i Tuareg sono stati scacciati da molte città precedentemente occupate. Questo Questa la crisi maliana, come si è dispiegata negli ultimi mesi, però come dire, parlarne solo in termini di estremismo religioso, di occupazione territoriale, riduce il problema, perché c'è una componente fondamentale che va affrontata e che è sotterranea, se volete, in tutti i sensi, perché bisogna parlare delle risorse e delle ricchezze del sottosuolo maliano. Allora abbiamo chiesto lumi a Alessandro Bruno, che è editorialista di Pro Edge Wire, e a lui abbiamo chiesto, con particolare riferimento al nord del paese, di che risorse stiamo parlando. Dunque, il nord è la parte un po' meno esplorata, c'è più deserto, perché il Mali, bisogna dire, è principalmente interessato all'agricoltura. Comunque, diciamo che c'è una parte che ha a che fare con l'agricoltura, perché hanno scoperto dei giacimenti importanti di fosfato nel nord del Mali. Infatti proprio nella zona dove si sono focalizzati i problemi principali di questi ultimi mesi, tra Gao e Timbuktu. Lì c'è una compagnia canadese che sta appunto esplorando un giacimento molto importante di fosfato, che potrebbe essere utile anche moltissimo all'Africa stessa, perché è di un tipo che non ha bisogno di ulteriori processi chimici per essere utilizzato, e quindi è più economico e renderebbe molto bene in quel territorio. Io ho parlato con questa compagnia varie volte, si chiama Great Quest. Loro hanno appunto abbandonato la zona e si sono concentrati ad esaminare più che altro i risultati dell'esplorazione per il momento, ma la risorsa è lì, e l'unico problema che hanno è proprio il fatto che ci sta Ansar al-Din e Mujao adesso, sì, in quella zona. Poi c'è l'altra risorsa principale, è il petrolio nella zona. Qui c'è l'interesse dell'Algeria, perché la ditta principale che sta esplorando questa zona è la Sonatrach, la compagnia di Stato di petrolio e gas dell'Algeria. Sì. L'Algeria è il paese che più si oppone a un intervento militare internazionale. Infatti ci sono stati molti negoziati tra la Francia, l'Algeria, anche gli Stati Uniti e l'Algeria in questo riguardo. Poi c'è una compagnia canadese che si chiama African Oil. Sì. È interessante questa compagnia perché va a scavare e esplorare petrolio nelle zone più difficili. A parte gli interessi nel nord del Mali, ha anche interessi nella zona settentrionale della Somalia, dove l'Etiopia, dove sono stati trovati dei giacimenti, quindi c'è un processo di esplorazione. Sì. Petrolio e fosfati sono i principali minerali del nord del, sì, Mali, mentre invece nella parte occidentale, sud-occidentale, la risorsa principale è l'oro. Di uranio invece non so, perché ho letto di esplorazioni per l'uranio. Sì, non... c'è l'uranio, l'uranio. Ecco. Anche l'uranio si trova ad ovest, a sud-ovest del Mali, proprio a 300 chilometri da Bamako, infatti. Okay. C'è una compagnia canadese che si chiama Rockgate Capital, che sta continuando il lavoro di esplorazione, infatti a tal punto che hanno pubblicato uno studio proprio una settimana fa, quindi stanno ancora lavorando lì in Mali occidentale senza problemi. Ci sono varie compagnie canadesi lì interessate a loro, e anche sudafricani. Il Mali si dice abbia, non so se le terze o le quarte risorse aurifere del mondo. Ecco, Alessandro, sì, quanto queste grosse imprese minerarie stanno facendo lobby su paesi ONU, su ECOWAS, per l'intervento militare, quindi per una stabilizzazione, per poter lavorare tranquilli? Ma a parte la IAMGOLD, che è molto grossa, sudafricana, io non sono sicuro di quanto queste compagnie siano interessate a interventi militari, perché quelle lì che hanno le risorse, soprattutto produttive, non hanno avuto alcun problema finora, sia dopo il colpo di Stato marzo scorso, che dopo l'invasione di questi gruppi, sia dell'Azawad o gli islamisti, insomma, i Tuareg o gli islamisti, non hanno avuto alcun problema. E le altre compagnie, quelle che ho detto, la canadese, la Great Quest, e Africa Oil Corporation sono troppo piccole per influenzare. L'unica che posso vedere come che abbia influenzato è la Sonatrach, ma non pro, contro. Per ricordare, la Sonatrach è una compagnia di Stato algerina e l'Algeria non vuole interventi internazionali. Ma quindi mi stai dicendo che ci sono delle società minerarie straniere che lavorano nella zona di Gao, ad esempio, cioè occupata da Ansar el-Din o dagli altri gruppi armati, che continuano a lavorare? Quelle che nella zona di Gao no. Ah, okay. Ma nella zona di Gao e Timbuktu gli interessi sono più che altro fosfati. E la compagnia canadese che ho detto è abbastanza, è troppo piccola per influenzare, insomma, è basata a Vancouver, hanno deciso proprio apposta di abbandonare per adesso, ma non credo che stiano facendo una lobby intensa. Mentre invece le compagnie più produttive che hanno quel tipo di potere, perché sono grosse, tipo la Yamgold, che sono molto più ad ovest, molto distanti dai problemi. Proprio il Mali si è separato in due. Sì. C'è una netta distinzione. E il problema all'inizio, molti investitori magari erano preoccupati all'inizio proprio perché facevano di tutta l'erba un fascio, mentre invece il Mali non c'è mai stato un problema. L'attività mineraria ed estrattiva è continuato senza interruzione nel Mali occidentale. Chiarissimo, chiarissimo. Invece quello settentrionale tutta l'attività si è fermata. Qui c'è stato abbastanza interesse, soprattutto nella zona di Vancouver, dove queste compagnie sono, insomma, dove ci sono le sedi ufficiali di queste ditte. In genere il Canada è uno di quei paesi che ha moltissimi interessi minerari sparsi per il mondo. Quindi insomma ha fatto molta notizia qua. Grazie mille Alessandro per essere stato con noi a Nessun Luogo Lontano. Prego. Questo è il complesso quadro degli appetiti di risorse e di materie prime che affollano quel desertico nord del Mali. Peraltro, facendo altre ricerche, abbiamo scoperto che erano in corso esplorazioni fino a un anno fa da parte di un'altra società mineraria australiana nella zona di Kidal, che è nel nord del Mali, occupato dagli islamisti. Si parlava di circa 200 tonnellate di uranio potenziale. Questo per dare un'idea di quanto valga la crisi maliana. E questo fa capire meglio il ruolo dell'Algeria, il ruolo della Francia, che ha interessi altissimi nel vicino Niger. I più attenti ascoltatori, lettori, ricorderanno che in passato vi sono stati parecchi rapimenti di tecnici ad Arlit, ad esempio, appunto in Niger, che lavoravano per Areva, che è questa multinazionale francese che si occupa di uranio. E poi c'è il ruolo del Qatar, piuttosto controverso, per così dire. Perché da alcuni mesi alle pochissime ONG che lavorano nel nord del Mali e che lavorano solo con personale locale si sono aggiunte, guarda un po', ONG del Qatar, e lì insomma gli analisti più attenti iniziano a sentire puzza di bruciato e sospettano che il Golfo voglia mettere le mani anche, mi verrebbe da dire, su questa crisi. Ho il tempo di salutare Gianandrea Gaiani, buonasera. Buonasera. Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa, scrive fra l'altro anche per Sole 24 Ore e Foglio. Con lui cercheremo di capire meglio questa missione militare che si va preparando, che ragionevolmente dovrebbe partire di qui a circa 9 mesi, perché i tempi sono ai noi, anzi ai loro, chi sta al nord, elefantiaci. Nessun luogo è lontano. برا لحزت البوق والزوارة برا لفزت الحزن ما بقى آمان برا العطش والناس منحوسين. E spirano venti di guerra in Mali, perché come recita l'antico motto latino, se vuoi la pace devi preparare la guerra, e in questo senso il semaforo verde del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per una missione militare corrobora questa antica tesi latina. Gianandrea Gaiani, ancora buonasera. Buonasera a voi. Allora, si preannuncia una guerra difficile, probabilmente lunga, molto molto complessa, perché il teatro è estremamente complesso. Stiamo parlando del deserto, stiamo parlando di tre formazioni diverse. E chi andrà a affrontarle, queste tre formazioni diverse? Ma guarda, tu hai parlato di venti di guerra, è vero, ci sono venti di guerra, ma soffiano molto lentamente sulla savana o le aree desertiche del nord del Mali, nel senso che tutte le stime parlano di un'operazione che potrebbe cominciare con la stagione secca del prossimo autunno, quindi a settembre. E allora, in termini militari, annunciare oggi o autorizzare oggi pubblicamente un'operazione militare, un'offensiva che dovrebbe liberare il nord del Mali e che partirà fra 9 mesi, è già un autogol, è già un suicidio, perché tanto dici al nemico che attaccherà, gli dici anche quando, gli dici anche che avrà un sacco di tempo per organizzarsi, perché nei fatti l'ONU ha autorizzato un'offensiva che non si può fare, perché le comunità degli stati dell'Africa occidentale hanno messo a disposizione 3.300 soldati, ma non si sa ancora di quale tipologia, con quali equipaggiamenti, sotto quale comando. Non c'è un comando predisposto per gestire queste forze, che dovranno essere affiancate all'esercito del Mali, sì, che è un esercito povero, erano 5.000 uomini prima dell'offensiva jihadista dei Tuareg, che ha preso il controllo del nord. Oggi sappiamo che la parte forse più efficiente di questo esercito è nelle mani, è sotto il controllo del capitano Sanogo, quindi dei golpisti, e lui stesso ha detto in una recente intervista di essere favorevole a un negoziato con i jihadisti, e quindi saranno forze affidabili, pronte al combattimento. E poi c'è questa operazione che è pazzesca, pensare con 5.000 uomini, vogliamo stimare 5.000 uomini, di liberare un'area grande come la Francia, certo desertica, certo con pochi centri abitati, insomma è un'operazione che militarmente ancora non ha né capo né coda. Il generale Carteram, che comanda l'Africa Command, il comando strategico americano responsabile per le operazioni in Africa, ha stimato che per questa operazione si potrebbero spendere 200 milioni di dollari. Chi li stanzierà? Chi pagherà questa missione? E intanto bisogna addestrare le forze del Mali, equipaggiarle, sì, perché non hanno equipaggiamento, e poi lo stesso Carteram ha detto attenzione, perché un'operazione del genere conviene lanciarla quando si è sicuri di avere le forze sufficienti per farlo. Farlo prima, si può andare incontro a un fallimento che sarebbe peggio della situazione attuale. Sì, anche perché dobbiamo ricordare che dal punto di vista strettamente tattico le formazioni armate conoscono molto molto bene quei territori. Forse fra gli eserciti africani chi li conosce veramente bene sono le forze di sicurezza algerine, perché dobbiamo ricordare che Al-Qaeda nel Maghreb islamico e le altre formazioni, ma per sintesi chiamiamola Al-Qaeda, diciamo, appiccichiamo questa etichetta onnicomprensiva, deriva dai vecchi gruppi jihadisti algerini che Algeria era riuscita in qualche modo a eliminare, a confinare nel sud, e che adesso invece occupano aree piuttosto, piuttosto grandi. E poi c'è il capitolo che non ci stancheremo mai di ricordare, che riguarda la famigerata apertura degli arsenali libici dopo la guerra in Libia, che ha armato pesantemente le formazioni che adesso occupano parte del nord. Gianandrea, riesce a darci lumi sul tipo di, senza scendere troppo nei dettagli tecnici, però su che tipo di armamento hanno a disposizione le formazioni estremiste? Beh, loro sono comunque forze leggere, si muovono con pick-up, con veicoli fuoristrada, e quindi hanno il classico equipaggiamento delle tecniche, così si chiamano, le jeep armate che scorazzano in diverse aree dell'Africa, quindi mitragliatrici pesanti, anche quelle antiaeree da 23 mm impiegate anche per combattimenti terra-terra, non per forza contro velivoli. E poi ci sono tutti quegli armamenti portatili sofisticati, saccheggiati dai depositi dei Tuareg e dai depositi di Gheddafi, sono missili anticarro, missili portatili antiaerei, probabilmente dei SSA-7, ma forse anche qualcosa di più sofisticato, di origine russa, che erano a disposizione delle truppe di Gheddafi. I Tuareg combattevano in parte con Gheddafi e in parte saccheggiarono quei depositi, e oggi dispongono di equipaggiamenti in grado di contrastare, non certo forse forze occidentali, che peraltro non sembrano predisposte o preposte o interessate a partecipare a operazioni in quest'area del mondo, ma sicuramente in grado di dare filo da torcere a eserciti africani. Equipaggiamento comunque tutto portatile, non ci sono carri armati, non ci sono mezzi blindati, materiale pesante che richiederebbe una logistica quasi impossibile in aree così vaste e così anche prive di infrastrutture, e quindi equipaggiamento in grado di combattere una guerra veloce, di movimento, e anche in grado di essere rapidamente occultate per essere poi impiegate in azioni di guerriglia o imboscate. Ecco, Genadea, mi prendo due minuti per rispondere a un ascoltatore che già postò su Facebook sabato scorso, quando era nostro ospite Romano Prodi, inviato speciale dell'ONU per il Sahel, che fra l'altro in questo momento è impegnato in una febbrile attività diplomatica proprio in Africa, proprio per scongiurare questi venti di guerra che, ed è una mia assoluta opinione, sono di difficile scongiura, perché non credo proprio che il dialogo riuscirà in qualche modo a far venire a capo di questa crisi. Ci siamo poi lanciati, come dire, in un paragone con la guerra libica, ma questo ascoltatore diceva e domandava quanto è possibile separare i gruppi Tuareg da quelli salafiti. Non tutti risponderanno allo stesso modo, non tutti hanno gli stessi interessi, assolutamente no. Da un lato i Tuareg rincorrono quel sogno della Zawad, che da decenni insomma è una causa che è lì, no? È sempre pronta a essere tirata fuori. Dall'altro i gruppi qaedisti fanno del traffico di armi, di droga, rapimento di occidentali un po' il loro grandissimo business, e poi, salvo poi cambiando etichetta ogni tot anni per darsi anche una legittimità, perché anche questa sigla Al-Qaeda nel Maghreb Islamico e l'affiliazione alla casa madre, diciamo, ha dato prestigio, però è rimasto un jihad locale, hanno interessi in quella zona lì. Io ricordo sempre che quelle zone sono attraversate da una rotta, da una linea di traffico di cocaina gigantesca che arriva dall'Africa occidentale e passa proprio di lì. Questo per restituire, come dire, sempre una dimensione economica, perché è fondamentale in questo tipo di conflitti. Gianandrea, si è parlato in queste settimane in cui, come dire, ci si lancia anche in illazioni, se vuoi in speculazioni è meglio, su chi potrebbe addestrare l'esercito maliano. Si è parlato anche di istruttori europei, si è anche vociferato di istruttori italiani. Queste possibilità, come le vedi, le tue fonti cosa dicono? Ma l'Italia, in una recente dichiarazione del Consiglio Supremo di Difesa, ha raccomandato questo organo che è guidato dal Quirinale di tenersi pronte, le forze armate devono tenersi pronte per nuove missioni alle quali la comunità internazionale potrebbe chiamarle. Ovviamente l'immaginazione ci porta facilmente alla Siria e ci porta facilmente al Mali. La Francia è già disponibile ad addestrare le truppe del Mali, l'Italia, quando verrà richiesto, potrebbe ufficializzare una sua partecipazione, io credo minima, con un piccolo gruppo di istruttori. Già lo facciamo in Uganda per addestrare con altri paesi europei l'esercito della Somalia, però queste sono operazioni che richiedono anni per formare un esercito africano efficiente. I francesi, qualche indiscrezione diceva addirittura che per abbreviare i tempi starebbero reclutando in Africa mercenari. Sì. Per abbreviare i tempi e disporre in breve tempo appunto di una forza da combattimento con capacità operative sufficienti. E gli americani sono già presenti in quest'area, hanno basi segrete in tutto il Sahel, dalle quali più o meno segrete, dalle quali decollano i loro droni che sorvolano anche la zona della Zawad. Qualcuno dice hanno compiuto già anche incursioni per colpire obiettivi mirati, come al solito la guerra dei droni di Obama diretta a colpire qualche leader di Al-Qaeda che si trovi in queste zone. Credo che però noi, per capire quanto è vicina o meno la guerra, dobbiamo fare delle valutazioni che allargano un po' il territorio da analizzare. Tu hai parlato prima dell'Algeria. L'Algeria è in prima linea a combattere i jihadisti, Al-Qaeda, ma può avere anche tutti i suoi interessi a far sì che l'area più importante di questa regione sotto il loro controllo resti il nord del Mali, così non sarà più il sud dell'Algeria. Certo. Tu hai parlato del Qatar, il Qatar, qui ci sono importanti informazioni che arrivano da ambienti vicini all'intelligence, di solito si dice così per citare fonti sì, che non vogliono essere riconosciute, parlano di numerosi aerei del Qatar che atterrano nel nord del Mali. Cosa portino non si sa, però se il Qatar ha interesse a mantenere questa zona del nord sotto il controllo dei jihadisti, come il Qatar ha sponsorizzato in Libia gruppi jihadisti e lo fa oggi in Siria, beh, allora questo può cambiare tante cose. Perché? Perché anche molti paesi europei l'Italia e la Francia sono tra questi, potrebbero subire, diciamo, l'influenza degli interessi del Qatar, che paese che investe moltissimo in Francia, sta investendo moltissimo anche in Italia, e quindi ritardare un intervento militare è nell'interesse del Qatar per consolidare interessi suoi in quella zona, voi l'avete detto prima, anche per ragioni probabilmente di sfruttamento di risorse minerarie. Sì. E gli Stati Uniti, bisognerà vedere, forse come sempre saranno loro a decidere da che parte si muoverà l'ago della bilancia, se verso la guerra o verso una stasi delle operazioni. Ecco, se gli Stati Uniti decideranno che è un nuovo Afghanistan sul quale andare a combattere o semplicemente sul quale limitarsi a lanciare qualche missile dai droni per ammazzare qualche capo di Al-Qaeda. Ecco, hai citato l'Afghanistan e allora mi viene da dire attenzione a pensare all'exit strategy, perché l'Afghanistan, le truppe internazionali sono rimaste lì 10 anni e quello che stanno lasciando è sotto gli occhi di tutti, cioè c'è un potenziale caos, quindi forse prima di intervenire bisogna anche pensare al dopo, cosa che non è stata fatta a mio parere anche per la Libia. 19:46 minuti 57 secondi, Nessun Luogo Lontano volta pagina e va a occuparsi del rientro dei Marò, dei due fucilieri, dei sottufficiali del San Marco, che sono rientrati appunto in queste ore a Roma, sono entrati in Italia dopo 10 mesi di detenzione in Kerala, in India. È nostro ospite, do il mio buonasera. No, è caduta la linea, vediamo se riusciamo a rintracciarlo. Anche Gaiani è caduto, stasera siamo un po' sfortunati. Allora, stavo dicendo, ci sarà utile, perché se buttate l'occhio su internet già le dichiarazioni dei politici italiani stanno cadendo a pioggia. Il plauso ovviamente di quasi tutta la politica su questo rientro, dall'altra parte invece in India qualcuno ha storto il naso, associazioni di pescatori. Questa vicenda è stata in parte anche strumentalizzata molto e ha, come dire, diviso molto anche, basta scorrere in rete su Facebook, insomma, alcuni commenti, come dire, al vetriolo, che non sto qua a ripetere, insomma, ha diviso parecchio questa vicenda. È vero, ci sono delle zone d'ombra, ma le zone d'ombra sono su quello che è accaduto e qui la magistratura farà luce. Non ci sono zone d'ombra, e cercheremo di capirlo meglio, sul quadro giuridico che ha permesso lo svilupparsi di quella situazione, e in questo senso chiedo lumi all'ammiraglio ispettore Fabio Caffio, in congedo, esperto di diritto marittimo. Ammiraglio Caffio, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Allora, ammiraglio, è utile, credo, in questo momento cruciale in cui appunto i due Marò sono rientrati in Italia, ricapitolare brevemente quale cappello giuridico ha permesso lo svolgersi di quell'operazione e poi l'arrivo e il rientro dei Marò in Italia. Beh, è abbastanza semplice, gli antefatti sono conosciuti. Sin dal 2008 la minaccia della pirateria è cresciuta in modo esponenziale e le Nazioni Unite hanno dichiarato la pirateria una minaccia alla pace e una sicurezza internazionale ai fini della protezione della libertà di navigazione, e quindi le Nazioni Unite hanno attribuito agli Stati la possibilità di usare qualsiasi mezzo per contrastare la pirateria. Bene, nell'ambito di questi mezzi c'è la scelta italiana, che ha affiancato all'impiego delle navi da guerra i team militari a protezione dei mercantili, quindi un quadro giuridico che si inserisce in una crisi internazionale, se vogliamo, ma va precisato un particolare. L'impiego di nuclei armati, come anche delle navi da guerra, non è indiscriminato, ma è limitato, secondo la norma di autorizzazione parlamentare e come anche secondo le Nazioni Unite, alla zona a rischio pirateria, cioè all'Oceano Indiano. Il punto è che questa zona a rischio pirateria, che è stata stabilita dall'Organizzazione Marittima Internazionale e dalle stesse organizzazioni dei marittimi, va dal Corno d'Africa fino all'India, fino alle coste dell'India, fino alla punta estrema dell'India dove c'è lo Sri Lanka. Quindi il fatto è accaduto, come lei ricorderà, il 15 febbraio di quest'anno, è accaduto a 22 miglia dalle coste del Kerala, esattamente nella zona a rischio pirateria. Questo è un dato di fatto. Sì. Ammiraglio, esiste la possibilità, sempre stando nell'ambito giuridico, di un conflitto giuridico nel momento in cui sia la Procura di Roma che la Procura del Kerala, le autorità del Kerala, conducono un'azione giudiziaria nei confronti dei due Marò? Ma guardi, il conflitto giuridico intanto non doveva succedere, non doveva succedere perché il fatto è accaduto in acque internazionali. Lei sa che le acque internazionali non sono soggette alla giurisdizione di nessuno, il fatto è accaduto su una nave italiana, quindi su una nave italiana dove la giurisdizione appartiene all'Italia, allo Stato di bandiera, secondo la Convenzione del diritto del mare. La nave non era destinata ad andare in India, doveva transitare al largo delle coste indiane, nella zona a rischio pirateria, appunto. Quindi se l'incidente è successo, perché come lei sa non è ancora provato né è stato fatto il processo di merito in India, se l'incidente è successo al di fuori della zona di giurisdizione indiana, o meglio l'India lì esercita giurisdizione ai fini della pesca, ma non ai fini di qualsiasi fatto di rilievo penale. Quindi la nave navigava ed era diretta verso nord. Come è potuta entrare nelle acque territoriali indiane, nel porto di Cochin? Per un espediente messo in piedi dagli indiani, un trabocchetto, possiamo definirlo così, è stato detto ufficialmente anche l'audizione del ministro degli esteri alla Camera il 16 marzo, un trabocchetto indiano, cioè gli indiani hanno, la guardia costiera indiana ha detto alla nave Lexi: abbiamo trovato i pirati, venite a verificare. Ecco, in buona fede la nave ha modificato la sua rotta e si è avviata nel porto di Cochin. All'ingresso del porto di Cochin poi c'è stata la sorpresa, gli indiani hanno gettato la maschera e hanno detto che erano morti due pescatori, sì. E a quel punto lì è nato questo confronto, questo conflitto di giurisdizione, perché è un conflitto di giurisdizione tra stati. Il punto è che gli indiani non dovevano esserci la giurisdizione perché la nave navigava in acque internazionali. Il problema si è posto quando la nave è entrata e quindi c'era, diciamo, una condizione di punibilità, cioè la presenza dei presunti colpevoli sul territorio indiano. E questo è, come dire, per puntualizzare quelli che sono gli aspetti giuridici. Poi lo ripeto, i fatti verranno accertati dal, vedremo quale autorità giudiziaria. Ammiraglio, con lei volevo fare un piccolo passo in avanti. Il fatto che la legge preveda l'utilizzo sia di militari che di contractors civili a protezione delle navi mercantili italiane in zone pericolose. C'è un interesse nazionale che può essere protetto sia da militari italiani, quindi dipendenti, rappresentanti dello Stato, sia da civili, da privati. Non è dal punto di vista giuridico un'ambiguità questa? Beh, non direi. Se lei vede la legge 130 del 2011 è molto precisa. Assegna priorità all'impiego dei militari e in via subordinata, qualora i militari non siano disponibili, consente agli armatori di fare ricorso a guardie armate private. Quindi diciamo che è stata fatta una valutazione preventiva, tra l'altro va ricordato che la legge è stata approvata con il consenso di tutti i gruppi parlamentari, è stata fatta una valutazione preventiva sul fatto che la protezione delle navi è una funzione statale, soprattutto in questo ambito di contrasto alla pirateria. Proteggere i cittadini all'estero è una responsabilità dello Stato. Se questo non è possibile, gli armatori hanno la possibilità di fare ricorso a queste guardie armate private, che peraltro ancora non sono in funzione, perché il Ministero degli Interni ha emanato un decreto che stabilisce stringenti requisiti di preparazione, di autorizzazioni governative, perché lei capisce, imbarcare su un mercantile delle persone autorizzate a usare le armi richiede certi requisiti e quindi questo è stato fatto e fra un po' saranno operativi. Intanto abbiamo recuperato Gianandrea Gaiani. Gianandrea, ragionevolmente, intanto stanno, come dire, le speculazioni su quello che può accadere in queste due settimane sono davvero tante. Un'ipotesi che a me viene in mente è che a un certo punto la Procura di Roma metta in stato di fermo, no, per condurre queste indagini i due Marò, e quindi il rientro in India potrebbe non avvenire perché è un'azione penale che è dovuta. Tu cosa pensi che possa accadere? Per quanto vi siano tutte le garanzie portate dallo Stato italiano che vi sia il rientro, Gaiani? Ma guarda, io parlo di un rischio e di una possibile soluzione. Il rischio è che, come legittimamente può fare la Procura di Roma, che aprì già in febbraio un fascicolo, un'inchiesta per l'omicidio di questi due pescatori, si avvalga delle sue facoltà e quindi fermi la Torre Girone, che sono in Italia, per avviare un'inchiesta, un'indagine. E questo potrebbe farlo al di là degli accordi politici presi dal governo italiano, perché in Italia, come in India e in genere in tutte le democrazie, la magistratura è indipendente dalla politica. Questo creerebbe un presupposto di un grave conflitto anche diplomatico, certo. Un grande scontro con l'India, presso la quale ci siamo impegnati a far rientrare entro il 10 gennaio i due fucilieri di Marina. C'è una possibile soluzione che potrebbe essere dietro l'angolo e accontentare tutti, forse, e cioè che la Corte Suprema indiana, che deve proprio esprimersi ormai da oltre 3 mesi sulla questione della giurisdizione, riconosca che, non dico che la giurisdizione è italiana, ma quantomeno che non può essere dell'India, visto che, come diceva giustamente l'ammiraglio Caffio, che saluto, i fatti sono avvenuti fuori dalle acque territoriali, certo, dell'India. In questo caso, se questa sentenza della Corte Suprema arrivasse prima dell'obbligo del rientro in India di La Torre Girone, loro potrebbero restare in Italia ed essere chiuderebbe così, giudicati in Italia. Tempo quasi concluso. Ringrazio Gianandrea Gaiani, ringrazio anche l'ammiraglio Fabio Caffio per essere stato con noi a Nessun Luogo è Lontano. Rispondo velocemente a un ascoltatore che scrive: Vladimir, la domanda è: erano pirati o pescatori indiani? I nostri marinai da vittime eroe non va bene. Il punto è che saranno le indagini e sarà un processo a stabilire che cosa è accaduto. Lo dicevo, insomma, questa vicenda ha creato divisioni, spesso direi ideologiche. Stiamo ai fatti, i fatti devono essere appurati dalla magistratura. Questa è la mia opinione. Ringrazio voi per essere stati all'ascolto. Nadia Zammiti in redazione, Filippo Reggi alla parte tecnica. Vi ricordo che il 24 sera siamo in onda con una puntata speciale da un'ora, ore 19:30. La cristianità è davvero in pericolo? I cristiani sono in pericolo nel mondo? Punto di domanda, questo è il tema. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci. We'll be right back.